paesello, l'inverno viene, e la neve il suo mantello, mi distende pian piano, abbracciando il mio fardello, dicendo, sospirando un ritornello, me ne vado lontano, come rondine voi, senza un nido né un raggio di della mamma non ho la carezza più tenera e lieve, il suo impacino non so, la mia mamma è soltanto la fare non badare, spazza camino, ogni bimbo ha un focolare e un barocco vicino, io m'accosto per giocare, quale don bambino mi dà un urto non toccare, va! Va a spazzare il cammino, tu mi scacci lo so, perché il volto più bianco non ho, ma lo spazza cammino, tiene un cuor come ogni altro bambino, se possiedi il tesoro, lettuccio verso chi c'è lieve, io mi sento un signor quando sogno in un letto.